E anche nel guardare indietro a questo anno, se c'è stata una cosa buona, costante, meravigliosa nelle nostre vite, è stato Cristo Gesù. Qualsiasi cosa tu abbia vissuto, può essere stato pure l'anno più brutto della tua vita, se hai Cristo, in Cristo ogni cosa coopera al bene. E in Cristo tu trovi senso e ragione anche per le tragedie più ingestibili, più dolorose, più sofferenti. È meraviglioso avere Cristo Gesù ed è per questo che lo celebriamo. Vogliamo accomodarci, voglio leggere un verso che si trova in Colossesi al capitolo 3, lo leggiamo insieme, dice così: come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, è la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ma l'avete letto con me? Secondo me no. Eravate distratti a vedere il gruppo Lode che scendeva, eravate distratti forse dal fatto che è uno di quei versi che suona familiare. Lo rileggiamo, perché il peso di queste parole è straordinario, ha un peso incredibile. Qui troviamo tra gli elementi le virtù più importanti che il cristiano ha grazia di poter vivere. Dice così, lo rileggo: come il Signore vi ha perdonati. Oh, potremmo predicare tutto il 2026 solo su questa frase. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore. Potremmo parlare di questo per i prossimi 10 anni. Che è il vincolo della perfezione, è la pace di Cristo, la pace di Cristo, è la pace di Cristo. Per altri 20 anni possiamo parlare della pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. Anche su questo potremo parlare a lungo. Regni nei vostri cuori e siate... Leggiamolo insieme, siate... Di cosa vogliamo parlare? Non abbiamo tempo di parlare del perdono, non abbiamo il tempo di parlare della pace, non abbiamo il tempo di parlare dell'amore, ma abbiamo il tempo per parlare della riconoscenza, va bene? Però che bei termini, perdono, amore, pace, riconoscenza. Perdono, amore, pace, riconoscenza. Perdono, amore, pace, riconoscenza. Perdono, amore, pace e per questo riconoscenza. Siate riconoscenti, dice l'Apostolo Paolo. Non è un invito, non è un suggerimento. Se potete, fatelo quando vi è possibile, quando la vita va per il meglio, siate riconoscenti. No, no, no. Questo è un comando. L'Apostolo Paolo dice: siate riconoscenti. E andando a studiare dall'originale greco, questi termini significano piuttosto, è un processo. Imparate ad essere riconoscenti, o in altri termini, siate persone caratterizzate dalla gratitudine. Siate persone caratterizzate dalla gratitudine. Le persone, quando ci incontrano, devono poter dedurre che siamo cristiani non perché abbiamo Gesù nella nostra bocca, non perché necessariamente evangelizziamo, non perché sappiamo dei versi a memoria, ma perché vedono in noi uno stile di vita diverso. E questo stile di vita diverso è caratterizzato da cosa? Dalla riconoscenza. Riconoscenza. Riconoscenza, che è il contrario di lamentela, è il contrario di ingratitudine. E noi siamo tentati di vivere costantemente la lamentela. Ma questa tentazione è forte. È forte perché la lamentela è una valvola di sfogo della nostra insoddisfazione. Quando una persona è insoddisfatta, comincia a lamentarsi, non necessariamente, quasi mai, della cosa per cui è insoddisfatta. perché a volte l'insoddisfazione è molto profonda, è una lacuna, è un vuoto interiore molto molto profondo, ma comincia a lamentarsi di tutto. E quando hai a che fare con una persona che si lamenta di tutto, c'è il sole e fa troppo caldo, ci sono le nuvole e fa troppo freddo, la musica è troppo alta o la musica è troppo bassa, la politica, oh, non tocchiamo questo tema, il calcio. Quando tu hai a che fare con una persona che costantemente si lamenta per tutto, oltre che essere un difetto culturale, perché purtroppo ce l'abbiamo, possiamo riconoscere un'insoddisfazione interiore, un vuoto che va colmato. E allora che cosa dobbiamo fare? Beh, è bellissimo ritrovarci il 28 di dicembre, dopo un anno nel quale abbiamo considerato la figura di Cristo quale modello ed esempio per essere come Lui, ritrovarci qui e dire: ora è tempo di fare un'altra decisione che si allinea al carattere di Cristo, la decisione di rinunciare alla lamentela. Amen. Hai motivo di lamentarti? Sì. Se non ce l'hai, vieni da me. Ho altri suggerimenti per te. Se ti mancano, vai in un bar, vai in un parrucchiere, vai da qualcuno. Dì: senti, c'hai qualche motivo per cui sei ingrato di questo 2025? Vedrai che bella lista che ti sfoggerà. Hai motivi per lamentarti? Sì. Hai ragione di lamentarti? Probabilmente sì. Non voglio sminuire la sofferenza che c'è in te. Hai ragione di lamentarti. Hai il diritto di lamentarti, hai il diritto, nessuno te lo nega. Però questo verso che cosa sta dicendo? Sta dicendo: rinuncia al tuo diritto di lamentarti. Rinuncia al tuo diritto di fare lamentela di ogni cosa. Quanti vogliono rinunciare a questo diritto? Ci sono diritti che ci fa bene rinunciare. Non tutti i diritti sono buoni. C'è pure un bambino che ha alzato la mano, bellissimo, anche se loro sono gli ultimi a lamentarsi, è bellissimo, però è bello tutte queste mani alzate, no? Perché vogliamo rinunciare al diritto di lamentarci, perché la lamentela non aggiunge niente, toglie solamente, ci deruba. Sei un derubato, sei un derubato da Satana. Satana si fa strada attraverso la tua lamentela, attraverso la tua ingratitudine. E allora, se vuoi vincere la tristezza, ho scritto così: la tristezza nella nostra vita può essere allontanata a colpi di grazie. Vi piace? A colpi di grazie tu allontani la tristezza. Sei triste? Fai a pugile, fai a pugilato, combatti a colpi di grazie. Nonostante tutto, grazie per questo e grazie per quest'altro e grazie per quest'altro. Ed è un violento allontanare la tristezza dalla tua vita. La gratitudine attira la gioia, e noi siamo un popolo gioioso, amen? Perché siamo grati. Un'altra cosa che ho scritto è che l'amarezza è una macchia nel nostro cuore che può essere pulita con l'esercizio del ringraziamento. C'è un esercizio da fare per pulire l'amarezza. L'amarezza è una macchia profonda. Avete presente quelle macchie che non si tolgono, che c'è bisogno di olio di gomito per tirarle fuori, per smacchiarle? Beh, l'amarezza nella tua vita è proprio una macchia che diventa difficile togliere. Più passa il tempo e più quella macchia rimane così aggrappata al tuo cuore, ti fa vivere male. Allora vuoi vivere bene? Rinuncia all'amarezza. E come puoi rinunciare all'amarezza? Come puoi lavare l'amarezza? Con ringraziamento, con la gratitudine per ogni cosa che ti viene in mente. Forse comincerai a farlo e te ne verranno in mente poche di cose. Ma più eserciti questa capacità, più diventerai bravo, diventerai un pulitore esperto della macchia dell'amarezza. E poi ho scritto: il vuoto dell'insoddisfazione. Ascoltatemi bene, non è per alcuni questo. Il diavolo viene a tutti, anche al credente più maturo, anche al credente più realizzato. Una bella famiglia, una bella storia da raccontare, una bella stagione di vita, eppure tu puoi trovarti in un posto idilliaco e il maligno si intrufola con l'insoddisfazione. insoddisfatto, ti senti insoddisfatto, ti senti irrealizzato. E l'insoddisfazione può essere colmata, perché è un vuoto, può essere colmata da che cosa? Dalla contentezza. Dalla contentezza. E sapete che cos'è la contentezza? È la gratitudine per ciò che si ha. La contentezza è essere grati per ciò che hai e smetterla di rincorrere ciò che ancora non hai o ciò che vorresti. Il mondo che ci circonda ci fa correre costantemente per cercare di colmare insoddisfazioni costanti che si presentano e ripresentano nella nostra vita, e colmi una e se ne presenta un'altra, e colmi quest'altra e se ne presenta un'altra ancora, e la nostra vita, la nostra storia di vita può essere un rincorrere questo bisogno di colmare l'insoddisfazione. Ed è una trappola, sei nella ruota del criceto, e questa ruota l'ha disegnata, ideata, progettata il diavolo, ed è lui che ti ci mette dentro. Quando ti fa guardare sui social o quando ti fa osservare la vita di altri, il paragone non ti fa bene. La tua insoddisfazione rimane perché c'hai sempre qualcosa da raggiungere, e anche qualora tu raggiungessi quella tappa ulteriore, quella meta ulteriore, lui è abile abbastanza da creare un'altra ruota nella quale buttartici dentro per farti correre e cercare di colmare. Vivi una vita insoddisfatta, e allora sii contento. E come attivi la contentezza? Con la gratitudine. Con la gratitudine. Vogliamo alzarci in piedi un attimo? Vorrei invitare tutti noi a chiudere i nostri occhi, riflettere un attimino su queste poche parole che ho condiviso. E non devi farlo perché te lo chiedo io. È un bellissimo gesto quello che potresti fare ora, un gesto di arresa, un gesto nel quale dichiari davanti a Dio e per te stesso che tu rinunci al diritto di lamentarti. Rinunci a questo diritto, rinunci al diritto di essere ingrato, lasci questo per prendere un altro stile di vita, un altro linguaggio, un altro modo di porti, un'altra prospettiva, un modo di vedere le cose diverso, che è fatto di gratitudine. Allora, mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, se senti che questo appello è per te, che a fine anno, l'ultima domenica dell'anno, il Signore ti sta dando l'opportunità ancora una volta di assomigliarli di più, di essere ancora più come Lui nella gratitudine, ti chiedo di alzare le tue mani e voglio pregare per tutti coloro che rinunciano al diritto di lamentarsi e afferrano la vita piena nella gioia del ringraziamento, della contentezza e della gratitudine. Gesù, grazie. Io ti ringrazio di cuore perché queste mani che si alzano sono mani di cuori che il tuo Spirito Santo ha raggiunto. Tu ci vuoi liberi, Gesù, tu sei venuto per darci libertà. Noi scendiamo da quella ruota, noi non diamo il diritto al nemico di portarci a rincorrere cose che non ci riempiono, che non danno soddisfazione, che non sono vita piena. Tu sei la vita piena e tu ci dai vita piena, e se l'unica ragione per la quale possiamo essere grati oggi è che tu ci hai salvati, tu hai pagato il prezzo dei nostri peccati, beh, questo è sufficiente per vivere una vita intera gioiosamente, in celebrazione, in gratitudine, in vittoria. E allora io prego per tutti noi, con le mani alzate, che in questo momento tu possa toccare la nostra lingua, toccare la nostra mente, toccare il nostro cuore. Liberaci dall'ingratitudine, liberaci ora dalla lamentela e afferriamo nel nome di Cristo Gesù uno stile di vita nel quale noi siamo caratterizzati dalla riconoscenza. Prego questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Rimaniamo in piedi con il un'attitudine di preghiera. Sento di pregare per chi vuole ricevere Gesù questa mattina. Vuoi una vita nuova. Forse hai già dato la tua vita a Gesù anni fa, ma ti ritrovi oggi e sai che l'hai abbandonato, che sai che quell'amore iniziale si è spento. O forse sei qui per la prima volta e dici: io non ho mai detto a Gesù: entra nel mio cuore, guida totalmente la mia vita. Allora io voglio invitarti a farlo, perché la scelta migliore che tu possa fare, non si tratta di seguire una religione, una chiesa specifica, non si tratta di una denominazione, si tratta di Gesù Cristo, la persona, l'uomo, il Dio che si è fatto uomo per te, per salvarti, per liberarti. Vuoi accoglierlo nel tuo cuore? Io voglio pregare per te. Voglio invitare tutti noi a chiudere di nuovo i nostri occhi. Se tu vuoi ricevere Gesù nel tuo cuore, fargli spazio e dire: entra nella mia vita, entra nella mia storia, guidami da questo momento in poi, ti chiedo di alzare la tua mano. Io invito a fare questi gesti, perché questi gesti sono importanti, anche quando fatti pubblicamente, per rendere molto concreta e seria la scelta. E allora, se sei convinto e la tua scelta è concreta e seria di voler avere Gesù nel tuo cuore, allora e solo allora ti chiedo di alzare la tua mano, e vedo diverse mani che si alzano. Grazie, grazie, grazie, ancora altri che si aggiungono, grazie, alleluia, grazie, grazie, meraviglioso. Ripetiamo insieme questa preghiera, in modo particolare tu che hai alzato la mano, ripeti dopo di me: Signore Gesù, ti accolgo nel mio cuore, guida la mia vita e sia fatta la tua volontà. Amen. Amen. Amen. Vogliamo fare un applauso al Signore per queste scelte già fatte a questo punto dell'incontro, e possiamo accomodarci. Allora, abbiamo tanto da dire del 2025, ma tanto da dire del 2025. Ed è stato un anno meraviglioso all'insegna appunto del tema, ditemelo voi, come te. L'abbiamo vissuto nei campeggi, l'abbiamo vissuto domenica dopo domenica con predicazioni che ci invitavano a concentrarci sulla figura di Cristo e tutti gli esempi che Lui ha da darci. E quindi alle mie spalle vedete foto dei campeggi, foto di occasioni nelle quali abbiamo vissuto come Chiesa il tema come te. È stato meraviglioso poterlo approfondire, come oramai facciamo ogni anno nei campeggi, perché i campeggi sono un tempo appartato di chiesa dove approfondiamo ancora di più il tema dell'anno. E siete pronti per il tema del 2026? Lo lascerò dire a Sara, qualcosa la lascerò a dire a Sara, quindi alla fine dell'incontro. E poi abbiamo vissuto le evangelizzazioni. Tante evangelizzazioni, abbiamo avuto occasioni evangelistiche meravigliose. Chi si ricorda l'autobus che abbiamo messo in piazza? C'è stato il ministero REM e con questo autobus abbiamo evangelizzato nella città di Modugno. Alle mie spalle vedete foto sicuramente anche del Mimo e di altre occasioni, di altri eventi quali la marcia a Taranto. Quanti sono stati alla marcia di Taranto, no? Abbiamo dichiarato Gesù Cristo, il liberatore, nella città di Taranto, eravamo numerosi ed è stato meraviglioso poter vivere anche questo tempo, la marcia, l'evangelizzazione in piazza, e poi abbiamo anche evangelizzato dentro la congrega, un bar, pub, dove Anthony ha cominciato a disegnare e a evangelizzare. È stata un'occasione evangelistica meravigliosa, il locale era stracolmo e la cosa bella è che non c'eravamo solo noi come chiesa, c'erano tante persone che erano lì per prendersi un caffè, per prendersi un aperitivo, e ascoltavano l'Evangelo predicato in una maniera creativa. È stato un tempo meraviglioso, un anno estremamente creativo, e chi non si ricorda il meraviglioso musical che abbiamo vissuto qua, no? Quanti hanno fatto parte del musical, quanti attori, ballerini, eravamo tutti coinvolti in una qualche maniera, i bambini anche. Facciamo un applauso a tutti coloro che erano coinvolti. È stato meraviglioso vivere questo tempo dedicato all'evangelizzazione in forme e in maniere diverse. Poi abbiamo avuto tantissimi ospiti, che benedizione. Abbiamo avuto io c'ho un elenco qua, il pastore Lorenzo Della Foresta, Antonio Morra, Danny Pasquale, Kevin Ferrera, Anthony Hendrick, abbiamo avuto Brian Job, abbiamo avuto il pastore Miki, abbiamo avuto Daniel, abbiamo avuto Ed Wells, abbiamo avuto un sacco di pastori e ministri che ci hanno benedetti. Quanti hanno almeno un ricordo di un ministero che è venuto a trovarci e che ha benedetto la nostra vita? È meraviglioso. Già vi anticipo che a febbraio avremo dei pastori che verranno ospiti e che insegneranno sulle finanze, quindi sarà meraviglioso. Avremo il pastore Giacobbe e sua moglie, quindi sarà un tempo anche altrettanto bello, quello del 2026. Non perdere queste occasioni, perché sono di incoraggiamento e di edificazione straordinaria. E poi, quante donne abbiamo nel nostro mezzo? Ci sono delle donne? Di solito gridano le donne, però non mi è riuscita. Lo dico di nuovo, quante donne ci sono nel nostro mezzo? Ecco, ci siete. Ci sono stati tanti eventi di donne meravigliosi. Voglio ringraziare mia moglie, che nonostante madre di due bambini neonati si è dedicata a questo, e includiamo in questo applauso tutti coloro che hanno collaborato. Grazie sorelle, perché è speciale vivere dei tempi così dedicati alle donne. Poi abbiamo avuto un anno straordinariamente ricco di matrimoni. Ma quanti matrimoni abbiamo celebrato? Sette matrimoni, ve li leggo, ce li avrò segnati da qualche parte. Ruben si è sposato, ragazzi. Cioè, e chi l'avrebbe mai detto? Che 2025. Lidia Petrelli si è sposata. Cioè, Cristian e Sofia. E poi abbiamo avuto Ilaria e Antonio che si sono sposati. Bianca e Fulvio. Leo e Francesca. Matrimoni meravigliosi, celebrazioni straordinarie, una migliore dell'altra, tutte occasioni anche di impatto evangelistico straordinario. E poi quanti anniversari abbiamo celebrato? Non si capisce. Abbiamo festeggiato 50 anni, 30 anni, 40 anni, 10 anni, tutti gli anniversari nel nostro mezzo. Enza e Michele, Vito e Nunzia, Eugenio e Grazia, Vito e Titti, Mario e Nella. E se dimentico qualcosa, perdonatemi in tutta questa cronostoria, ma è stato un anno ricco, dove abbiamo dato importanza alla celebrazione dell'unità familiare. Ascoltatemi bene, noi siamo una chiesa che è costituita di famiglie, non di individui. La nostra missione è rivolta alle famiglie. Il nostro cuore pulsa per famiglie unite e sane, per matrimoni che reggono, per matrimoni che reggono sui presupposti biblici e che seguono e si allineano alla volontà di Dio, e così sono benedetti, perché c'è benedizione nel vivere un matrimonio secondo colui che lo ha progettato. Perché è lui che ha ideato il matrimonio e con lui funziona bene il matrimonio. E quindi abbiamo investito nella consulenza di coppie, nei corsi prematrimoniali, ma non solo, nel vivere degli incontri per la genitorialità, il Family Day, nel quale abbiamo potuto scoprire sempre meglio come educare, come approcciarci ai nostri bambini in un tempo così diverso, in un tempo sociale con tante sfide per noi genitori. E abbiamo vissuto tanti di questi appuntamenti, e noi andremo avanti così. Già domenica prossima avremo un'altra celebrazione di anniversario. Siete contenti di questo? Pasquale e Graziella celebrano il loro 60° anno di matrimonio. 60 anni! Noi crediamo nell'importanza di famiglie sane, ed è per questo che facciamo tutto quello che facciamo. Abbiamo avuto tante nascite, perché il frutto del matrimonio sono i bambini. E crediamo in famiglie numerose che ce la fanno. Perché un conto è avere tanti bambini, l'altro conto è farcela. Noi vogliamo avere tanti bambini e farcela anche, e quindi crediamo in questo. Abbiamo avuto tante presentazioni di tanti bambini meravigliosi, e noi crediamo anche nell'investimento e nell'importanza da dare alle nuove generazioni. La nostra chiesa, domenica dopo domenica, non offre un servizio solo rivolto agli adulti, ma parallelamente un servizio rivolto ai bambini, nel quale i bambini adorano, pregano e ascoltano la parola. E se sei genitore, hai una responsabilità cruciale, fondamentale, di fondamentale importanza, quella di portare i tuoi figli domenica dopo domenica assiduamente a vivere questi incontri, perché ne va di mezzo quello che sarà il loro futuro. E tu non puoi decidere se loro seguiranno Gesù o meno, ma tu puoi fare ogni sforzo affinché loro possano più probabilmente, con più possibilità, scegliere la via di Cristo. E questo, come genitore, ti toglierà da tante, tante sofferenze future. E allora, se è una sofferenza ora sforzarti di portare i tuoi figli qui in chiesa la domenica, pensa alla sofferenza futura di avere dei figli che non seguono il Signore e vanno per vie tangenti. Io ti invito a scegliere la sofferenza minore, che è quella di vivere l'incontro domenicale e soprattutto farlo vivere ai tuoi figli. Vogliamo ora vivere un tempo di adorazione, di preghiera, ma anche avremo il contributo di bambini che canteranno un canto, perché i bambini hanno vissuto tante tematiche e loro anche hanno dei brani di adorazione che cantano. Però prima vogliamo adorare noi con questo meraviglioso brano che si chiama Dichiaro Gesù. E questo brano a un certo punto dice: io dichiaro Gesù sulla mia famiglia. Ed è quello che vogliamo fare in questa parentesi dell'incontro, dichiarare il nome di Gesù sulle nostre famiglie. Quindi vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Vogliamo adorare con le parole di questo brano. Ti invito a dichiarare per te, per la tua famiglia, dovunque sia la tua famiglia, che sia qui con te in questo incontro, che sia frammentata, nel nome di Gesù, che nel nome di Gesù intere famiglie possano venire a conversione e seguire Lui. Adoriamo insieme.